Comuni nel mondo. 46esima trasmissione dedicata agli emigrati. Buia, patria dei fornaciai. Dallo snello e elegante campanile alto 70 metri, la campana del Duomo di Buia sgrana i suoi festosi rintocchi per salutare gli emigrati friulani. Il suono lambisce le linee maestose della chiesa madre. Si spande sulla piazza che si protende come un naturale palcoscenico sull'anfiteatro morenico, raggiunge i monti che chiudono Buia in semicerchio come in un affettuoso abbraccio. Monte San Simeone, Quarnan, il Chiampon. Ad essa si uniscono a farle coro tutte le campane delle 12 chiese di Buia, le 8 facenti parte della chiesa madre e quelle di Avilla, di Madonna, di Urbignacco. L'armonioso festante concerto valica i 7 colli su cui Buia ha eretto le sue case. Tocca ad una le 20 borgate, s'allarga nella pianura e vi raggiunge Friulani in ascolto con la sua voce che chiude il saluto della vostra gente. Ben a diritto aspetta a Buia questo saluto, perché Buia è stata e rimane paese di emigranti. Non furono forse i buiesi, i fornaciai friulani più rinomati nel mondo per numero e capacità. Nel 1820 i fornaciai di questa terra bellissima tra le belle del Friuli cominciarono a girare per le Germanie, come si diceva allora, per procurarsi il poco cibo necessario a sé e alle loro famiglie. Qui il paesaggio è stupendo, ma la terra è povera e allora non dava da mangiare neppure per la metà dell'anno. E i buiesi, come tutti i friulani ritornando d'inverno dalla Germania, così cantavano. Fu a causa della povertà del terreno, appunto, alla mancanza di mezzi, che l'ingegno dei buiesi si aguzzò sino alla fabbricazione della moneta. E lo scherzoso nomignolo di Regno di Buia dura ancora, applicato al paese, in ricordo di quelle emissioni che culminarono al tempo della guerra 1915-18 e che a fine conflitto furono regolarmente e legalmente convertite dal governo italiano. E a qualcosa dei lontani battitori di moneta è rimasto nel sangue di questa gente. Se il buiese Giampaoli divenne a Roma capo e incisore della zecca di Stato e se a distanza d'anni un altro buiese, Guerrino Monassi, lo ha seguito quale primo incisore. Conoscevano i primi emigranti che raggiungevano quale prima tappa del loro girovagare la Baviera l'arte di trattare l'argilla. C'erano allora in Buia 8 fornaci e ottime argille per la lavorazione forniva appunto la Baviera, estremamente bisognosa di materiale edilizio. Nanchel diaul alla tenut dur plui di tredis in te fornas, dicevano i vecchi alludendo alle loro fatiche, eppure affrontavano sereni le vie dell'emigrazione. Si facevano coraggio cantando questi versi. Un pidut sulla ferade e che l'altri sul vapor, si sta poca là in Germanie, la calegno muros. lontani dalle loro case, non tutelati da alcuna legge, ignorati dalle autorità, chi avrebbe potuto assistere quegli umili e benemeriti lavoratori se non la Madonna? Fu così che nell'estate del 1875 un gruppo di fornaciai bugliesi alle dipendenze del loro compaesano Giacomo Ganzitti in Hauthausen, poco lungi da Monaco di Baviera, decisero di preparare una statua della Vergine alta oltre 1,5 metri con l'argilla da essi ogni giorno maneggiata. Come l'ebbero modellata, la collocarono nel forno insieme ai mattoni. Ma sembrò loro che la materia fosse troppo vile e troppo semplice la lavorazione, e provvidero a far dipingere con una somma raccolta a gran fatica il simulacro della Madonna da un pittore di Monaco. A fine stagione non rientrarono soli a Buia. Recavano con sé il loro tesoro, la loro celeste patrona, che decisero di chiamare Mater Salutis. Avevano infatti bisogno di tanta salute per continuare il loro duro, massacrante lavoro. Ora si sta svolgendo un'azione intesa ad ottenere che la Mater Salutis divenga la patrona ufficiale dei fornaciai. Ma Buia non ha soltanto il simulacro della Madonna dei fornaciai, che ora si conserva in una nicchia dell'altare maggiore della chiesa di Avilla e in onore della quale si fa festa grande il 21 novembre di ogni anno. Buia ha anche 3 meraviglie: la campana della Pieve, che fuga le tempeste, le squisite trote dell'Edra, l'acqua detta del Cocule, freschissima e ristoratrice. E fra le sue tradizioni ne è una poeticissima, venata di tristezza come tutte le espressioni gentili dell'anima. Il giorno di Pasqua i buiesi visitano 3 chiese, l'ultima delle quali è quella del cimitero. Dopo la preghiera ci si accosta alle tombe dei cari morti e vi si depongono i primi fiori della primavera. È Pasqua, Cristo morto risorge, e con lui risorgono nella memoria e nel cuore coloro che non sono più al nostro fianco. Bella Buia anche nella sua povertà. E della sua bellezza vi dicono questi versi dei buiesi Maria Forte e Francesco Battolo, che sono una lode e un invito.